It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli aleggia ovunque l'incubo della morte, K e Drago si trovano a far parte di un oscuro doppio gioco. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Zitto, ascolta. K. Zitto! Cosa dice adesso? Se stai zitto, magari lo capiamo. Sembra che dica lineare Verstärkung, pugno nel pollo. Addirittura. Sì, sembra così, Drago. Non vorrei che i capi della fabbrica qui avessero già scoperto il piano del pollo in sbattimento e quindi... Sì, che anche il mio piano. Io ci credo, K. No, il pugno del pollo è l'unica organizzazione che può farci uscire da questo inferno di polli e di aviari. Ma Drago, ma il pugno nel pollo non è un'organizzazione. Come no? Ma no, non è niente. È solo un'idea stravagante del pollo in sbattimento. E con stravagante ho detto poco. Ne parla da un po', però non si è ancora visto nemmeno un pollo del popolo che lo stesse a sentire. Vabbè, ma bisogna avere tempo. Dai, se non hai il popolo pollo dalla tua, non vai da nessuna parte. Anche con le BR però era successo così. Si erano dannati l'anima per convincere tutti che se vincevano loro si sarebbe stati meglio. E dicevano: faremo come in Cambogia, come in Vietnam, non siete contenti? Come no? Alla fine, dopo tanta fatica, si sono contati e si sono accorti di essere quattro gatti e che il popolo non aspettava altro che scendere in piazza, ma non per la rivoluzione, per la vittoria ai mondiali dell'82. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. La fabbrica di polli. Pollo in sbattimento, cosa c'è? Compagno pollo in sbattimento, c'è cosa che non va. Compagno pollastre. Volevo dire che mi sa che è il caso di stare un po' tranquilli adesso, eh. In che senso? Perché quei volantini lì, è successo un casino dopo. Vabbè, per forza. È meglio lasciare che le cose si calmano un attimo. Ma l'hai fatto apposta, cioè abbiamo fatto apposta i volantini per far casino, no? Poi hai una faccia diversa sì, oggi. Ma come diversa? Sì, hai una faccia serena, rilassata. Non sei incazzato nero come al solito. No, io sono sempre incazzato. Sì, si vede. Però dai, insomma, un po' di rumore l'abbiamo fatto, no? Ma com'è? Abbiamo fatto i sequestri lampo, i volantini Adesso ci godiamo un po' la vita, no? Scusa, Pollo in sbattimento, ma non è che sei stato comprato? Chi? Io? Chi? Comprato? Ma che ci provassero pure ad avvicinarmi per portarmi al mercato. No, vabbè, comprato non in quel senso, eh. Vabbè, io li becco tutti, eh. Ma come? Ma provassero pure. Provassero parli pure. Anche come loro. Sì, infatti. Ti hanno comprato, Pollo in sbattimento. No. Ti sei messo d'accordo con i padroni della fabbrica per farti dare più paroxetina, ecco com'è andata. Ecco, infatti. E la tua battaglia politica, anzi la tua lotta armata, è finita. Belle che finita. No, non è vero. Ma guardalo lì, ma guarda com'è ridotto. Io sono in sbattimento. Ma come sei in sbattimento? Stai benissimo. Vabbè, sì. Cosa? Sì, no. Non è vero, oggi sto bene. Oggi, oggi, infatti. Ho preso la paroxetina in dose quadrupla. Quadrupla? E chi te l'ha data? Chi te l'ha data? No, un momento, chi te l'ha data? Ho saltato la farmacia con Tarek. Come ho saltato? La farmacia qua all'angolo. Ma quale farmacia, quale angolo? Cosa stai dicendo? Tu sei un venduto. Oi. Come tutti i rivoluzionari. Oi, piano con i titoli, È venduta sarà tua sorella. Sì, mia sorella, cioè, ma qui cosa siamo proprio. Ma lo vedi? Sembra un hippie. Cioè, sì, cosa è successo? Sembra uno dei Grateful Dead. Ma no, adesso è che in questi tempi così rapidi, così frenetici, i processi che normalmente ci mettono anni a realizzarsi, si compiono molto in fretta. Io ho frullato tutta la vita di un 68 incazzato in una settimana. E adesso sono arrivato al punto in cui sono dalla parte del potere. Tipo quelli lì, quelli di lotta continua, no? Lotta continua. Tipo Gadalerne. Io sono come Gadalerne. Tu sei come Gadalerne. Perché? Va bene. Io non sembro un po' Pollo Gadalerne. Beh, sì, in effetti un po', sì. Allora. È un gallinaccio anche lui. Come me, come voi due, no? Sì, e quindi? Quindi cosa? Ma scusa, tu credi di cavartela così? Che adesso sei Gadlerner e bon? Perché? C'è qualcosa di male? Come sei di male? Sei Gadlerner? Adesso sono Gadlerner, per cui comando io, no? Ma Gadlerner tuonato così, che parla come un hippie, ma come? Cioè adesso, levatevi dalle palle, va? Che ho un sacco di roba da fare, articoli, trasmissioni, direzioni di TG, le lettere del cuore. Poi c'è la campagna anche, quella lì, quella per liberare i compagni Polli ancora in carcere. Poi io sono Gadalerne, dai, andate via, vai, ciao, via. Sì, vabbè, via, show, i TG, le interviste, scusa, sarai anche Gadlerner. Ma le truppe del colonnello Unghiute? Scusa Pollo, hai detto che le avevi allertate, che sarebbero poi venute a darvi una mano. Come fai adesso? Adesso? Le truppe del colonnello Unghiute. Sì, vabbè. Poi quando arrivano ci pensiamo, no? Ma come ci pensiamo? Diciamo grazie che non ce n'è più bisogno, no? Ma come? Che lo devo fare adesso io, con quel bingo bongo lì. Bingo bongo, che chiamato? No, perché quelli adesso arrivano e poi vogliono qualcosa in cambio. Appunto, sono cavoli tuoi adesso. Ma c'eri anche tu, Drago, Sì, vabbè, però gli accordi, guarda che gli accordi li hai presi tu, sei arrivato tu, mi hai detto. Ma tu eri lì, mica ti puoi tirare indietro adesso, Bravo, vedi, Drago, metterti con i drogati, guarda qui. I drogati. Vabbè, drogati, guardati un po' come sei. Drogati. Tutto più, ho esagerato con la prossettina, mi gira un po' la testa, no? Sono un po' così, un po' la bocca asciutta. Vabbè, sarà la paroxetina, no? È drogato. Sì, e il colonnello Unghiute? Il colonnello Unghiute quando arriva, vediamo. Basta che non si incazza. Se si incazza con te, quindi. E poi è difficile che non si incazza. Capito, se viene Unghiute, vediamo un po'. Lo dirottiamo a Tarek. Comunque, questo è un bel guaio. Che cosa succederà adesso? Come riuscirà il Pollo in sbattimento a tenere a bada le tremende armate del colonnello Unghiute? E che conseguenze avrà il tradimento del Pollo in sbattimento sul destino del glorioso movimento Il Pugno nel Pollo? Uè, che tradimento? Lo scoprirete sintonizzandovi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo spionistico allestimento de... La Fabbrica di Polli. Anche sul podcast di Radio Rai. La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Camilla Frontini, Luca Gemma, Luca Monarca, Alberto Onofrietti. La Fabbrica di Polli @rai.it, barlumen.com. La Fabbrica di Polli produce, non chiude, non chiude. La Fabbrica di Polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen, good night. Barlumen.